qualche cosa che non sta andando bene, che non si capisce niente, a parte che siamo fuori frequenza. Fuori frequenza? E allora, ecco che cosa è nel microfono, perché stai... Ancora? Sì. Aspetta un attimo, forse non era agganciato bene, vedi un po'. No, no, c'è ancora. Allora, vediamo un po', allora, qua è a posto. Così pure non mi dà niente di che, aspetta che sia da dietro il microfono. Aspetta, schiaccia solo la portante e stai zitto. La ventola si sentirà. Adesso l'ho fatto un po' di meno. Aspetta un attimino se riesco a... Vabbè. Vediamo un attimino se riesco a... a fare dei balle. Non ho fatto un video, ce lo dire, esiste. Allora, vedi un po' senza compressore. Aspetta. Vediamo un attimino se riesco a... fare dei balle. Aspetta. Aspetta, cancelliamo. Aspetta. Questo è quello che hai. Hai capito? Sì. Guarda così, senza compressore. Leggero ce l'hai ancora. Ma hai sentito come stavi emettendo? Boh, sale dal microfono, dallo spinotto. Guarda un po', lo muovo, vedi un po'. Aspetta, metto qua, vediamo un po'. Ancora? No, adesso no, adesso niente. Però poc'anzi avevi... bravoroso. Senz'altro è il cavetto. Vediamo un po' riattaccando qua, se si sente ancora. Vabbè, un pochino... La cosa raccoglie, ma non come prima, eh. Posso abbassare il coso lì. Ma chi mi aspetta? Ecco, così l'ho messa a 3. No, vabbè, la rotella va bene. E che aveva anche una sorta di scarica. Chissà cosa ho mangiato a pranzo. Una fagioli, sicuramente. Più fagioli che tocco. Credo. Alfredo. Mi ha chiamato Renato per farci portare il materiale domani. Quando va il camion a lanciare, ti ricordi? Ma ho capito niente di. Ho detto, bisogna chiamare a Renato. Quello che aveva il furgoncino arancione, te lo ricordi? Il numero. Dovrei averlo io. Credo di averlo. Però bisogna dargli la rizza. Perché io c'ho solo il numero di. Mentre sei già Maghiddo. Aspetta. Cambiaggio, no, non è cambiaggio. Vabbè, ho capito quello che stai dicendo. Sarò un po' giù un numero, mi. Come si chiama di nome? Me la metto. Ho capito, quello che non rosso stai dicendo. Che si mette anche a fabbrico, come si mette. Aspetta, guarda la rubrica, se ho troppo. Dai, dammi 5 minuti, mi avevo sta radio, ti richiamo tra poco. Ehi. Luca. Ehi, sono qua. Anche io, buonasera. Giornali. Signor Bacchiglio! Tino! Mamma mia. Come fate il caso in campagna, boh, ne approfitta sempre, ma fuggì. Buonasera. Ciao Tom, buonasera. Ma non me l'hai tolto da Facebook, no? No, me sono un po' dimenticato. Aspettami, adesso che mi hai ricordato, ho tolgo adesso, aspetta. Se no, ti fai fare una ricarica e ti prendi lo stesso quei soldi. Sì, è grazie, mi ha chiamato sta gira. Oh, e chi? Allora, che ho dato il gommone. E lo so pure io. Lo so, perché ho lasciato il telefono qua, io ero più ero. Mamma mia, speriamo siano brutte notizie. No, sicuramente, perché io ho il foglio suo e lui ha il foglio mio. E foglio di cosa? Sì, perché abbiamo fatto il passaggio. Ah, ho capito. Che io ho le fotocopie sue e lui ha le fotocopie mie, della la carta d'identità e del resto. E portate sia a posto il gommone da buio. No, quello era a posto. Non c'era niente che di cose, quello era a posto. Aspetta che ne tolgo. Metto, allora elimino l'annuncio. Luca Flipper. Un attimo. Non dovreste più vederlo, Tò. Ieri stamattina l'ho visto. Luca! Mefra! Ti posso chiamare che ti devo dire una cosa importante? Ehi, addirittura! Ehi! Ehi, allora, chiama! Ehi, va bene! Ciao, Tore! Ciao, Fra! Ho sentito! Dovrebbe essere a posto! Luca! Ciao, Tore! Giamarì, sto uscendo un attimino! Già torno subito! Ehi, ciao, d'accordo! E te lo incendi, no? Franco, un attimo che la sto impostando. Via. Ok, come adesso? Aspetta, già sta funzionando. Sì. Adesso vediamo. Come. Ok. C'è un'altra radio accesa. Come va? Adesso sta facendo. Speriamo di no. Si è fatto così, vediamo un po', prova a trasmettere, a tenerla accesa. Sì, lo tengo sia acceso, intanto se ne va, dovrebbe andare fra 15-20 minuti. Non lo ridotto va. Più o meno così. Va bene, dai, adesso gli ho portato il bicchierino a 7 e la potenza gliel'ho lasciata al massimo. Infatti gliel'ho regolata io perché se ne è scesa facendo lì quell'operazione. Mette a 20, va bene. Vedi, non c'è cosa a 20, devi... Allora, su Rosmetro, non so pensare. Io uso Rosmetro. Cioè, il Rosmetro sempre è collegato. A 30 è adesso, con Rosmetro. 30 watt. A meno che non si vada, perché appunto stai usando tutta la potenza, siccome scalda, no? No, a meno che non se ne va in protezione. Ah, dice, aspetta che l'abbasso allora, l'abbasso a 5, no, a 5 no, da 40 la metto a 20, da. A me a 20, io uso a 20, ma qualche prova l'ho fatta anche al massimo, non per mezz'ora, perché mi ha chiuso per provare e non me l'ha fatto. E lo tengo a 20, va benissimo. Capo, aspetta. Ok. 20 volte. Poi toccalo dietro, un dissipatore. Quelli scaldano, questa radio qua scaldano un bel. Io tenendolo così rimane tiepido. No, non scalda tenendolo così. Poi non so se è una modifica che gli hanno fatto alla ventola, che quando va in trasmissione aumenta la velocità e poi diminuisce. O se è così di natura. Magari sono così di natura. Cosa ti volevo dire? L'ho chiamato ma non mi risponde. Vabbè. Pazienza, magari c'è qualcosa lui. Se te la fa ancora sì. Sì, vuol dire che lo sa. Comunque tienilo basso così già ti togli quel dubbio. Ok, a 20 è qualcosa modulato. E ho scarpe basta tutto qui dietro, se vedi che scalda tantissimo vuol dire sicuramente se ne va in protezione. Ecco, in effetti io non me lo ricordavo che questi andavano in protezione se scaldava troppo. Perché hanno quel diciamo difetto, per quello io ho 20 lo tocco ogni tanto dietro, è sempre tipico, non scalda tanto. In effetti, dopo, se tu lo lasci, quando se ne va, se tu lo lasci, dopo un po' torna da solo. Vuol dire che raffredda, probabilmente è quello. Io sul dissipatore, ma c'ha la ventola dentro, perché la sento io quando è... quando schiacci. Ma quando tu schiacci, cioè quando sei in ricezione, la senti la ventola? Sì, no, in ricezione no. E come no? Si abbassa, c'è, ma si abbassa. Però quando io schiaccio che vado in trasmissione, lì si sente di più. Ed è giusto, come questo, ed è giusto. Che quando va in trasmissione aumenta la velocità naturalmente perché deve raffreddare di più. Esatto, come gli switch, quei alimentatori. Esatto. Beh, poi se te lo fa ancora. Come io ho schiacciato una ventola anche al coso, lì dietro. Ma toccalo, se vedi che scalda tanto, sì, ci vuole. Una ventolina di quelle 5x5, gliela metti, gliela puoi attaccare dietro al dissipatore in modo che aspiri più aria, quello sì. Sì. Va bene, adesso vediamo come si comporta. Anzi guarda, mi sto mettendo un termometro con la sonda attaccata al dissipatore. Adesso ti faccio vedere quanto è la temperatura. Adesso la mando a 10 fatta a vedere come esce. Allora, adesso è 38,8. 41,9, l'ho appena collegato, però mi sembra che questo arrivi a 50 il termometro. 45,3. Luca, ce n'è andato. Chiata, ti metto mezz'ora, ma 10 minuti è durato. Vabbè, almeno. Molto strano, molto molto strano. Prova a usare il suo microfono originale a vedere, hai già fatto questa prova? Sì, sto usando sempre quello. Questo adesso è a 46,9, adesso ti mando anche la foto. Ecco, no, io l'avevo sceso a 10 watt. Aspetta, ti mando la foto. Se vuoi posso contattare quello dove l'ho preso io, che è tecnico, e mi sa dire subito cos'è. Franco? Sì, sono qua. Ma sei tutto un innesco, fischi, a nastro. Perché ce l'avevo acceso quello là, lo sento adesso. Sì, è questione qualche cosa... te l'ho detto, se vuoi ho contatto quello dove l'ho preso io, che è tecnico anche, mi saprà dire. Guarda, ti ho mandato i messaggi. E prova a vedere, a dirgli, a vedere perché fa quel difetto, che modulando se ne va di ricezione, di niente, neanche portante fa. Ma in ricezione, se lo lasci acceso, lo fa lo stesso oppure solo quando va in trasmissione? No, non lo so, non te lo so dire, perché ricezione non l'ho guardato. Dovresti fare quella prova lì anche, per vedere se è questione magari di che scalda o qualcos'altro. Magari per vedere se lo fa o non lo fa in ricezione. Vabbè. Prova a vedere di visto. Dici che se ne va di ricezione e non va neanche di portante. Dopo 10 minuti in pratica, praticamente. Allora, questo adesso è salito 49,8. 49,8. Sì. Sto guardando quella foto tua, però. Ma ciò che è tutto come tra i due viaggi che composto. Sì, ma poi una volta ero reset, no, capito. Mi è salita a 50, 54. Come l'ha mai fatta a me? Aspetta, era contatto, dai. Solo con l'informazione. buona volontà. Ora. Ah, c'è qua fatto. Luca, tu sì. Beh, gli ho mandato il messaggio, Fra. Aspettiamo. Già risponde subito, solitamente. Anzi, l'ha già visualizzato. Vediamo un po' cosa ci risponde, dai. Capo. Adesso l'ho sceso a 5 watt, adesso sto usando con quello. Vedi un po', se te lo fa anche a 5 watt, boh. Perché è strano che se ne vada anche di ricezione, tra l'altro. Capo. Sì, non sento più a nessuno. La portante non sale, niente. Non si spegne però la radio. No. Se questo stronzo non ti vuole rispondere, guarda il bastardo. L'ho chiamato, ma non è rispondo. Vabbè, pazienza. E contattarlo su Facebook, hai provato? Ma lascia perdere, già riesco a mettere la porta. Allora, adesso questo è a 46.3. Aspetta, mi ha risposto. Chi ha detto no, mi aveva chiesto se la radio si spegne, gli ho detto adesso di no, che non si spegne, però che fa, non va più né in trasmissione né in ricezione. Cosa ti ha detto? Adesso aspetto che visualizzi il messaggio. Non l'ha visualizzato di nuovo questo. L'altro sì. Luca, questa cosa vengo subito, mi sta chiamando mia moglie giù, mi serve della roba. Lasciala acceso allora, Fra. Sì, è acceso, certo. E ok, a dopo. Luca! Sentiamo Luca! Luca! Da Maria! Ecco! Sono rientrato. C'era Luca poco fa. Non so cosa c'è il radio. No, che sta guardando la televisione, non l'ho sentito. No, se non ne va a vedere ancora con Franco. No, che aveva abbassato il volume. Che non ho sentito nessuno. C'era un telefono con Franco. Non mi sa. C'è Bacchisio, Bacchisio. Sì, mi sono avvicinato in garage da lui. E poi mi ha detto che stava chiudendo il garage e io sono andato via. E lui stava andando a casa. Allora, si farà sentire. Poi poco fa c'era marito, poi il PMR stavamo parlando. Dopo mi sembra che è venuto il nipotino e stava a prendere il nipotino e ha chiuso. Dice che ci faceva sentire poco fa. E a me il PMR io non disumo, capisci? No, io mi ho staccato tutto dal PMR. Sono nel portatile. Io c'è pazzesco qua, capito? Ogni tanto entra Luca, Manuele, Tonino, Marino, insomma, almeno lì lo posso parlare, si capisce, non disturbo, sono tranquillo, mentre qua disturbo è vinto di rompere, capito? Così sì. Stavo già accendo il coso. Il portatile ogni tanto. No, con il portatile non so se prendo. Bisogna che mi faccio un allaccio. Faccio un allaccio. Beh, attacca l'altro, cazzo. Quando accendi una accende l'altro, cazzo. In un punto o l'altro. Se una chiacchierata va bene ugualmente. A cosa l'abbiamo bigliato il suo BMR allora? Ma l'altro solo il portatile all'opero. L'altro mi sono stufato, ponendo un coso. Io sono sopra il tavolino qua, sono tranquillo, capito? Quando attacco l'interruttore accendi uno e l'altro, capito? E sono sempre accesi, capito? Adesso mi devo fare l'attacco con il capo, mi devo fare, da farmi lui. No, c'è il disiattore. Ma non devo fare, devo farmi gli ispettori, devo fare. Perché è comodo, capito? Magari non fare lui in un punto e poi farla anche sull'altro e viceversa, capito? Perlomeno. io lo penso in questo modo, io li accendo tutti e due, non mi fidano, per cui ce l'ho davanti. Guarda, tu io l'ho messa a pazienza sia uno che l'altro, capito? E io quando accendo, accendo tutti e due, a fare un punto, a farlo con l'altro, capito? Faccio così, vabbè. Per il momento mi accontento così. Vabbè, ognuno si accontenta come il suo piacere. Ok, dai, rimango in ascolto. Ok, Giammarino, ci sentiamo. Vabbè, lo so. Ma tu non sei attuato. Ciao. Vabbè. Già entrerà. Sono capito fratto che adesso. Già entrerà. Vabbè, entra adesso. Se vuoi entrare, se no rimango fino a poco, fino alle 8. Ciao fra. Ciao Giovanni, piccolino piccolino ti sei. Ma chi io ti sento piccolino? Perché sto usando cioccolato. Ah, d'accordo fra, ci sentiamo là, buon proseguimento, saluto Riccardo. Va, ciao, tutto ricambiato al centro. Allora, tu? Tu non ti giochi, mi sono allontanato, sono uscito un attimino. Adesso sono rientrato. Ciao. Ci vuole ogni tanto, un piccolo sbaglio. Sì, dillo, pazienza. Ieri non c'ero ieri, ero in campagna. E mi pare di arrivare nella stessa in poco. Vabbè, va benissimo. Ciao, ci vuoi fare. Ciao. Allora, solo una cosa. Basta, ti sto arrivando. Prova a vedere. Vedi a vedere. Sto uscendo con 5 watt di portante e 10 watt modulati. Allora, come segnale c'è il 8. Come radio c'è il 5. Già ti ascolto. Sì. Vabbè, il microfono originale che sto usando nella radio. Vabbè, con il microfono originale già sono bene. La radio è perfetta, è il segnale che c'è gli occhi. Sto provando con un passaportetta perché sto controllando una cosa, a vedere come va. Andiamo bene allora. Giulia, Luca! Tu sai che Luca è o è Sardegna o è a Rudolfo? Sicuramente. Così. Stasera, ma chi c'è? Ho incontrato poco fa in garage. Ho incontrato e mi ha detto, dice che stava nel massaggiatore, però non so se ce la faceva a entrare. Perché secondo Fiore era, non entrava neanche. Certo che è già le 8 quasi. Infatti, a me bisocciamenti. Vabbè dai fra, ci sentiamo alle prossime. Se senti a Bartigio, saluta Miro. Grazie, saluta Bartura. Ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, ciao fra. Tanto meglio altri. Ciao Giammarino, se ci sei all'ascolto. Ci sentiamo. Ciao Tor, ciao, saluto di casa, ciao. Ok, dai, ciao Tore. Buon tipo tutto, dai, ci sentiamo. Ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao Giammarino. Ciao fra, ciao, ci sentiamo.